Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Amore mio, che fame spaventosa. Tante volte voi avete detto che non basta mangiare un pomodoro rosso per avere una certa quantità di antiossidanti. Vede, però... che allora siamo parenti, oggi abbiamo detto così. Però lei ci segue, eh? L'uomo che sussurra alle erbe, Franco! Ciao Nico! Ma ciao, bello. Buona domenica a te e a tutti i nostri radioraccoglitori. Buongiorno a voi e bentornati alla tavola della bufala in tavola. Abbiamo ripreso il passo con il nostro diario sonoro per ricordare un po' l'atmosfera delle nostre tavolate domenicali. E oggi... cari amici, la tavola della bufala in tavola si veste d'estate, quindi di colori. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio... avete mai giocato a strega comanda color? Bene, oggi è la vostra occasione. E per giocare insieme a noi e tornare, dai, che ci sta anche un po' bambini. Ci accompagna il dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano, che è in linea con noi. Dottore, buongiorno, bentornato. Ma buongiorno, che bello, io sono tutto vestito di colori diversi, ecco. Non mi vedete perché siamo dei radiomangiatori oltre che radioraccoglitori. però porta bene tutto il porta... colore, anche addosso. Sì, e poi sta bene, insomma, dai. E io per l'occasione la trasformo in mago, perché mago comanda color e secondo me anche il cappello da mago. E da strega, cioè, no, è carino, eh? Perché noi anche se eravamo maschietti eravamo già in una flessibilità di genere e quindi si diceva comunque che andavamo a giocare a strega comanda colore, insomma non mago comanda colore. Beh, tu vedi che c'era questo aspetto simpatico, per cui va bene, però metto sul cappello, va bene. Ecco, d'accordo? Cappello e colori, ecco. E a proposito di colore, chi ci conosce sa che il motto di Crudo, Vivo e Colorato è alla tavola della bufala in tavola una specie di mantra dell'alimentazione sana che lei ci ha inculcato puntata dopo puntata. Quindi... ah, esatto, ormai da tanti anni, ricordo, era il 1912. No, forse troppo. Forse però... siamo andati troppo indietro, troppo però là, insomma... però è vero che lo diciamo però è da vero, anni, da anni. Ecco, sembrava quasi uno scherzo, un gioco. Non lo è. Ecco, invece non lo è. C'è tanta letteratura dietro questa indicazione, che sa di buono già, di freschezza, di colore, di piacevolezza, ma fa bene anche alla nostra salute. Dottor Speciani, perché il crudo vivo e colorato è un'indicazione che nutre la nostra salute? Ah, c'è un dato generale, prima ancora di parlare dei colori, l'aspetto legato alla presenza nella frutta e nella verdura, che possono quindi variare, di alcune sostanze che si chiamano panallergeni, nome difficilissimo, ma diciamo che sono degli anticipatori di tutte le sostanze potenzialmente che generano reazione presenti in tutti gli alimenti commestibili. Quindi quando noi mangiamo un pochettino di crudo, vivo e colorato, mettiamo dentro, oltre a un po' di vitamine, di minerali e di sostanze antiossidanti, che sono quelle che generano i colori, in realtà mettiamo dentro anche delle sostanze che corrispondono un po' a tutto l'universo commestibile conosciuto, ed è come se anticipassimo, aiutassimo l'organismo a migliorare il rapporto fisiologico con quello che si mangia, riducendo poi l'infiammazione, riducendo le allergie e tutta questa serie di cose. Quindi questo fa bene. Devo dire poi invece il colore, questo è un dato potente, perché ogni vitamina, ogni antiossidante eccetera ha le sue caratteristiche di vibrazione, potremmo dire, quindi una certa lunghezza d'onda che dà il colore. Quello che noi vediamo in realtà è una particolare lunghezza d'onda di emissione, e ogni lunghezza d'onda corrisponde a delle azioni specifiche scientificamente documentabili di ogni singola sostanza. Dai, streghetta, tanto ecco, se mi butta lì un colore giochiamo. Vabbè, volentieri, ma noi giocheremo con tutti i colori, perché il messaggio è forte e chiaro: nutrirsi ogni giorno con 5 porzioni colorate, cambiando appunto i colori di frutta e verdura, aiuta proprio il nostro organismo a funzionare meglio. Non a caso quel 5 è un numero che rientra nella nostra così ricetta, nella formula della longevità. 0530, dottor Speciani, e qua ritorniamo ancora ad un classico, non solo della bufala ma anche di Obiettivo Salute. 0 sta per zero fumo, 5 le famose 5 porzioni di frutta e verdura colorate, sottolineiamo colorate, e di tutti i colori aggiungerei, e 30 sono i minuti di attività fisica quotidiana. Mago Maghetto, l'ho stupita? No, bravissima, io credo che potrei prenderla come strega accessoria. Strega supplente, però con due bacchette, se mi prende da strega io voglio due bacchette magiche. Assolutamente, una con la stellina sopra, perché questa sta perfetto. Si intona correttamente, dai. Allora, dottor Speciani, abbiamo detto che è una tavola tutta colorata, quella della bufala di oggi, ma naturalmente è un invito, perché i colori non sono presenti solamente in estate, ma il colore deve guidare le nostre scelte anche in altre stagioni, in cui magari la frutta e la verdura sembra un pochino più smortina. Ma dottor Speciani, che cosa faremo? Anticipiamo un po' il nostro gioco. Dai. Passeremo in rassegna un po' tutti i colori commestibili, quelli che troviamo sui banchi di frutta e verdura del mercato, dal nostro fruttarolo, e di ciascuno lei, dottor Speciani, ci dirà quali sono le caratteristiche e le proprietà, suggerendo chi non deve farsi mai mancare quel colore lì. Dottore, dai, è questo un po' il gioco? Allora, la faccio riposare un attimo. Tiri via il cappello, si metta bene comodo e seduto, anche voi accomodatevi, restate con noi, facciamo una pausa e poi pronti che si gioca. Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Attimi che diventano storie indelebili nella nostra memoria. Linee d'ombra racconta proprio quegli attimi, piccoli o grandi episodi della nostra vita che ci hanno trasformato nelle persone che siamo, perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Raccontare, condividere stralci delle nostre vite è il miglior modo per affermare: ecco, io sono questo. Le linee d'ombra che abbiamo attraversato ci hanno mostrato spazi, luoghi e mondi che nemmeno noi sapevamo di poter abitare. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo due pagine. E noi, ogni giorno, ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. La bufala in tavola. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma e iniziamo proprio dal rosso. In linea con noi il dottor Attilio Speciani. Oggi l'abbiamo coinvolto in una sorta di mago comanda color. Perché? Perché oggi vogliamo parlare dell'importanza del colore nel nostro piatto, colore che possiamo aggiungere naturalmente scegliendo frutta e verdura, variando i colori, perché in ogni colore c'è uno scrigno di virtù nutrizionali e non solo. Dottor Speciani, cioè in questo momento rosso pomodoro, no, ma a me viene in mente il rapanello, mi viene in mente le fragole che occhiggiano direttamente quando vai a guardarle. Io ho un micro campettino di Fregian Campettino, ho sotto un fico, ho delle fragoline di bosco che vengono fuori e ogni giorno si rivelano con gioia e hanno esattamente lo stesso tipo di forza. Le ciliegie, che purtroppo stanno andando sugli alberi qui ad esaurirsi, ma le troviamo comunque sempre, e l'anguria, perché sì, e quindi abbiamo, già solo parlando di estate, certo se fossimo in inverno ci mettiamo dentro le arance rosse, ci mettiamo la barbabietola, ci mettiamo la rapa, no, la rapa rossa, e dove c'è il rosso c'è una produzione importante, c'è dentro qualcosa che ci aiuta ad avere le antocianine, nome terrificante dal punto di vista generale, ma in realtà tutti quelli che hanno problemi vascolari, tutti quelli che hanno la necessità di avere ad esempio le gambette più sgonfie, così lo butto lì, no? Perché è un tema che non riguarda mai nessuno ed è invece un tema che il femminile sente molto bene, e soprattutto per i maschietti invece il licopene, che è una sostanza basilare ad esempio all'interno del pomodoro cotto. Sì, cioè nel senso che c'è anche il licopene, ovviamente c'è anche il pomodoro crudo, però attiva la sua capacità di funzionare bene nel pomodoro cotto, per cui i sughi, noi abbiamo questa meraviglia dei sughi rossi che danno colore anche alle nostre paste, ai nostri risi, ai nostri, cereali, questa forza potente anche del licopene, delle antocianine che funzionano, devo dire, in modo egregio. Nel maschietto il licopene ha una funzione di prevenzione, ad esempio, di tutte le malattie legate alla prostata. Rosso, licopene e antocianine, ma andiamo anche a un colore che è spesso vicino al rosso, quel giallo-arancio che fa tanto estate, che ritroviamo in tutta la frutta estiva, nelle albicocche, nelle pesche, ma anche nel melone, senza, e poi ma anche nella verdura, negli ortaggi, il peperone ad esempio. Esatto. E anche nelle spezie. Il peperone è simpaticissimo, perché in realtà crea un mucchio di colori diversi, perché ha detto: come faccio a sopravvivere durante tutto l'anno? E allora si è fatto il peperone verde, il peperone giallo, il peperone rosso, in modo da poter Abbiamo capito che il giallo arancio ci aiuta anche a proteggere la nostra pelle dai baci appassionati del sole, abbonda di insalate preparate anche con le carote o comunque cerca l'arancio e il giallo, perché regalano quel colorito, si dice, ma è davvero così? Quando si va in eccesso, ogni tanto capita di vedere persone che hanno talvolta anche dei disturbi del comportamento alimentare, per cui mangiano solo carote, no? E allora vedi che la pelle man mano prende un colorito giallastro per un eccesso di beta carotene, ma in realtà nelle persone che bilanciano bene queste cose, perché noi sappiamo, quando pensiamo all'arancia ad esempio, classicamente il colore arancia giustamente, e pensiamo alla vitamina C che contiene, ma anche al beta carotene, tutte e due, vitamina C e beta carotene, vanno a lavorare su un lato sull'equilibrio della pelle, dall'altro, e qui io lo ribadisco perché ognuno di questi vegetali di cui stiamo parlando interagisce con gli altri. Uno dei doni grandi della vitamina C non è tanto la sua azione diretta di tipo vitaminico, che pure ha un'azione protettiva sui vasi, sulla pelle, su quello che abbiamo detto, ma fa come da spazzino per le altre vitamine, cioè ad esempio la vitamina E, che è una meravigliosa, non c'è nei vegetali, quindi la cito opposta, in realtà la vitamina E a un certo punto finisce di fare la sua azione antiossidante, toglie i radicali liberi, fa l'azione più importante per l'organismo e poi alla fine è esausta. Allora arriva la vitamina C e snap, gli toglie via il suo sovraccarico di radicali liberi e, come dire, la rimette in circolazione funzionante. È come uno spazzino funzionale, no? Un ripulitore anche degli altri degli ecco, altri ci aiuta antiossidanti. Ci aiuta questa immagine, perché così quando sappiamo che portiamo a tavola il giallo e l'arancio, sappiamo che possiamo contare su questa azione da spazzino. Spazzino, esatto, perfetto, brava. Giallo, arancio e mago comanda color verde. Quando le persone mi dicono: ma cosa posso mangiare per far funzionare ad esempio, che so, la vitamina D? E dico: guardi, intanto lei si mangi le foglie verdi, perché si mangi la foglia. Mangi la foglia, questo è carino. Però appunto dall'insalata, prezzemolo, spinaci, cavoli, le forme possibili, l'indivia, ma il kiwi se pensiamo all'inverno, gli asparagi, cioè sono tutti elementi, i broccoli e i broccoletti in altra epoca, voglio dire. Certo. Cetrioli. Cetrioli. Io che infiliamo nella panzanella anche, buonissimi. Che buoni i cetrioli, a me piacciono tantissimo. Non tutti digeriscono i cetrioli, perché dottor Speciani? Ma sono, come dire, lievemente difficoltosi. Ti dirò una cosa crociata interessante: spesso chi non digerisce il cetriolo non digerisce neanche l'anguria, che era sono dalla stessa famiglia, sono cugine. È proprio una individualità di risposta, non è un prodotto difficile da digerire, ma sappiamo che ognuno ha le sue. Ognuno ha le sue, come si dice qua a Milano. Ma è vero che il verde protegge il cuore? Allora, il verde sì, proprio perché è ricchissimo tutta la parte verde di acido folico, di folati, che normalmente hanno un'azione protettiva. Devo dire che la complessità di quelle che sono, banalmente si dice, le verdure a foglia larga, comunque quelle che abbiamo citato adesso, piuttosto che altri, in realtà hanno dentro una complessità di vitamine e minerali che interagiscono. Quindi normalmente quando noi riusciamo ad avere un'azione protettiva, un'azione di queste sostanze vitaminiche e minerali, andiamo a prevenire anche le malattie cardiovascolari bene, bene, e questo è documentato in maniera precisa. Dirò, aggiungo una cosa, che se uno anziché mangiarsi quintalate di pane, si mangia un po' di pane e molte insalate, in realtà previene le malattie cardiovascolari, anche perché evita il sovrappeso, evita di andare in eccesso di assunzione di carboidrati e così via. È un dato fondamentale. Molti oggi con la vitamina D mi dicono: ma come faccio? Devo mangiare anche, devo prendere anche la vitamina K2. Nelle foglie larghe, nelle foglie verde, negli ortaggi a foglia verde c'è dentro anche la vitamina K2, che aiuta l'assorbimento della vitamina D. Vedi? E con questo finiamo sul colore. Proprio una sorta di aiuto reciproco tra uno e l'altro, perché comunque io immagino com'è difficile tenere in vita una foglia, cioè davvero stanno facendo, noi lo vediamo crescere nell'orto e non ci pensiamo, ma è proprio un'azione, traspirazione da una parte, la parte sopra è diversa da quella sotto, quella esposta al sole rispetto. Allora, è magnifico, vero? È un mondo straordinario. Ed è un senso di energia potente, sempre di equilibrio, però diciamo acido folico, folati che aiutano anche le malattie cardiovascolari e la vitamina K2 per le nostre ossa e il nostro calcio. E poi è bello pensare che i colori giocano in squadra, un colore aiuta l'altro. Parliamo anche di vasi vasellini che si avvantaggiano del consumo di alcuni alimenti, di alcuni prodotti che hanno un colore caratteristico, il blu viola. Tocchiamo un tema che per me è veramente fantastico. Tra l'altro sto scoprendo, avendo piantato un po' di piante di mirtilli di diverso tipo e diverse origini, sai, tu vai, ne prendi due di un tipo, due dell'altro, e a distanza di 4 anni da quando le ho piantate, in realtà ognuna c'ha un tempo di maturazione decisamente diversa. E in questo momento io sto mangiando tutte le mattine i mirtilli del mio orticello, sono felicissimo. Ma ne porti un pochino qua anche alla bufala, su, sia generoso. Allora, approfittiamone soprattutto quando è stagione, perché anche quella l'abbiamo detto tante volte, ce l'avete ripetuto tante volte, la natura è saggia e ci porta i prodotti nel momento giusto, quelli che ci fanno bene per quel momento lì dell'anno, e quindi arrivano i frutti di bosco, mangiamoli ora. Che belli, io infatti sono in attesa dei Ecco, sono anche meno cari, ecco. Però mirtilli, ribes, tra un po' avremo l'uva nera, ma è proprio il colore, quando prima parlavo delle onde che sono quelle che noi vediamo come colore, che è un certo tipo di vibrazione elettromagnetica che caratterizza ogni cosa che noi vediamo con un colore, ha questo tipo di importanza. Tra poco lo vediamo anche nel radicchio, quando inizierà ad arrivare il radicchio viola, no? E quindi tutta la parte trevisana, le prugne che hanno questa variabilità di colori, è bellissimo con le varie formulazioni di prugne che escono, per cui da quella giallissima a quella violissima, e quindi si può divertire. Le melanzane che tra poco iniziano a comparire. Che cosa possiamo prendere dai cibi blu viola, dai prodotti blu viola, quindi fichi, frutti di bosco, melanzane, prugne, radicchi, uva nera, mirtilli, ribes, che cosa buoni, ci portano? Buoni sono sempre, le abbiamo citate già prima parlando della frutta rossa, sono queste famose antocianine, quindi sono sostanze, sono delle meraviglie, io posso dire, perché in realtà vanno ad agire, non solo, uno pensa ai vasi, pensa alle gambine gonfie, in realtà agiscono anche sulla prevenzione dell'aterosclerosi, quindi riescono ad inibire l'aggregazione delle piastrine, che è quella che determina la formazione delle placche nelle arterie, quindi tant'è che spessissimo una delle indicazioni che io do, almeno per la parte stagionale, ai miei pazienti con problemi di questo tipo, è di iniziare la loro prima colazione potenzialmente con frutti di bosco, iniziando a mangiarsene un po', farsene un quantitativo e cercando di variarli nel corso del tempo, perché davvero l'azione antinfiammatoria delle antocianine e l'azione di protezione sulla struttura dei vasi è di fortissimo impatto, e quindi è un tema piacevole. E stiamo avvicinandoci, direi, a rileggere come davvero, come ha detto prima bene Nicoletta, cioè c'è un'interazione tra tutti i diversi colori, è il motivo per cui non dobbiamo perdercene neanche uno. Dottor Speciani, io mi fermerei perché subito dopo la pausa parliamo di un non colore che però, come a dire, d'estate è sempre perfetto, il bianco. Vi hanno detto che non si sarebbe ripartiti, che sareste rimasti senza calcio e sport chissà per quanti mesi, che era tutto finito, chiuso, cancellato. E invece no. Radio 24 vive insieme a voi questa calda e lunga estate di sport. Tutte le domeniche, in diretta, tutti convocati in weekend. Il programma che vi racconta cosa sta succedendo, ascolta la vostra opinione e vi farà vivere in prima persona la volata per Scudetto, Champions League, Mondiale di Formula 1 e tutti i grandi eventi che riprendono. Un'estate senza limiti. Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo vi aspettano tutte le domeniche, rigorosamente in diretta dalle 17 alle 19 su Radio 24. La bufala in tavola. Una tavola tutta colorata, ma adesso è il momento di parlare di un non colore, del bianco. In linea con noi abbiamo il dottor Speciani, che ci ha accompagnato in questa prima parte della trasmissione raccomandandoci di mescolare i colori quasi ad arte, perché un colore aiuta l'altro. Dottor Speciani, il bianco. Bello, mi sta venendo in mente il bianco quando anche raccolgo i fiori, in cui l'aggiunta di qualcosa di bianco rivalorizza i colori all'intorno. Ma vede, ma lei è anche un po' un poeta. Lo so, però la cosa bella di tutto ciò è che qualche anno fa queste cose sembravano poesia, in realtà poi oggi sono scienza assoluta. Infatti, che se io penso al bianco mi viene in mente la cipolla, mi viene in mente il finocchio, mi viene in mente l'aglio, il cavolfiore, che c'è bianco ma c'è anche quello verde, quello un po' violaceo. Insomma, lei è un poeta, io invece metto le gambe sotto il tavolo. Che cosa ci danno queste? Allora, la cosa più carina dei bianchi, come dire, è che in realtà hanno degli importanti contenuti minerali e quindi infatti vanno a sostenere sia il tessuto osseo, la situazione polmonare, c'è un apporto di selenio decisamente rilevante, quindi ci sono queste sostanze che diventano cofattori, come nel mazzo di fiori che dicevo prima, cofattori dell'azione di tutti gli altri. E poi c'è dentro una forte composizione che è la quercetina. Quercetina è una sostanza che ha una forte valenza antiallergica, ad esempio, è un nemico delle forme tumorali, quindi bisogna averne la giusta quantità in modo da sapere come il corpo poi sa, una sua intelligenza nell'attivare le proprie forze difensive. E poi se penso al bianco, devo dire, mi viene in mente guarda, proprio come richiamo quello che ha detto l'American Cancer Society pubblicandolo proprio pochissimi giorni fa, il 9 di giugno, in cui hanno rivalutato, a parte dicendo che la cosa più importante per difendersi è proprio mangiare colorato, variare i colori, e soprattutto hanno fatto una rivoluzione passando dal senso di cibi cattivi che per anni sono rimasti, ad esempio i formaggi, adesso pensavo al bianco, no? I formaggi considerati per un certo tempo cibi cattivi, in realtà no, perché dipende da una individualità di risposta, dipende dalla qualità del tipo di prodotto che mangi, e quindi si entra in una dimensione in cui è più importante mantenere il peso e mangiare colorato. Queste sono le indicazioni non mie, ma dell'American Cancer Society di pochi giorni fa, che secondo me hanno un valore, sappiamo che stiamo muovendoci in questa direzione da tempo. E noi, come a dire, dottor Speciani, il colore è servito, pronto in tavola. Dai, che bello. Grazie, dottor Speciani, per essere stato con noi. Buona giornata colorata. Ma a tutti, io adesso devo togliermi il cappello da mago, mi dispiace un po'. Ma lo tenga ancora per un po', dai, oggi può tenerlo. Sì, è domenica. Grazie al dottor Speciani per essere stato alla tavola della bufala in tavola. Tutti i colori li possiamo portare a tavola, ma anche fuori, se decidiamo di fare un bel picnic, mangiare all'aperto. Oh! Finalmente la stagione, tra l'altro il picnic è diventato più che mai un must, e come anticipato è tornato a trovarci il nostro amico Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto in nutrizione. Buongiorno. Buongiorno Nico. Intanto prepariamo il nostro picnic. Che cosa ci mettiamo dentro? A me piacerebbe ancora portare il cestino da picnic, così elegante, bello, di Vimini, si apre. Ne ho visti alcuni magnifici. Lei so già che mi fa portare la borsa frigo, però. Ma dipende da cosa ci vuoi mettere dentro, puoi portarli anche tutte e due. Eh sì, tanto poi li porto, così faccio proprio, tanto li porto tutti io, perché finisce sempre così. No, comunque è vero, cioè bisogna distinguere due grandi categorie di alimenti per il picnic, quelli che devono essere refrigerati e quelli che non ne hanno bisogno. Per cui la borsa frigo in effetti va benissimo. Se pensiamo per esempio al piacere, a proposito dei colori, di quello che si diceva prima, a tutte le verdure che adesso la natura ci offre e che vale la pena di preparare già lavate, pulite, bene asciugate prima di partire e tenere al fresco e poi tagliarle sul posto in modo da goderne proprio al massimo vabbè, della ma difficilino però dottor Donegani, no, mi però, metto a tagliare il pomodoro però, guarda, il pomodoro hai preso proprio quello hai ragione però allora c'è una cosa allora l'altro giorno proprio mi è capitata una cosa bella sul picnic perché questa amica ha avuto un'idea fantastica di mettere in sacchettini singoli, no? Già tutte le carotine tornite, i pomodorini ciliegini, i pezzettini di finocchio ben chiusi, e qui andiamo incontro anche alla esigenza del momento di garantire, insieme alla sicurezza igienica degli alimenti, sempre necessario mantenere la sicurezza rispetto al problema che stiamo vivendo. Assolutamente, picnic è all'aria aperta, ma le distanze devono essere però sempre. Le distanze e anche proprio il contatto. Esatto. No? Cioè, per cui se ognuno ha il suo sacchettino già pronto con dentro le verdurine, sono veramente, è stata un'ottima idea quella. Mi sembra, l'adotteremo anche noi, proprio per poterci godere in tutta sicurezza un picnic. Abbiamo voglia di andare a mangiare sul bel prato o facendo una gita, bene, però rispettiamo, e questo è l'aiuto che dare il dottor Donegani, perché ci aiuta a portare il prodotto giusto, ma nello stesso tempo a prepararlo in modo che la sicurezza sia garantita. Naturalmente ci sono anche degli alimenti, dei prodotti che magari per il picnic non sono tanto indicati. L'insalata, la foglia di insalata si smoscia. Tutto quello che è molto appunto delicato, le foglie di insalata, anche le fragoline, così, cioè è facile, nonostante siano ottime, che si schiaccino. Poi soprattutto direi anche limitiamo al minimo le salse, la maionese, queste non si prestano. Un classico di un tempo era il vitello tonnato, no? Ecco, direi che non è il caso di andare su questo tipo di prodotti salsati. Perché? Perché il caldo non piace solo a noi, ma piace anche ai microrganismi, ai batteri che si moltiplicano velocemente e nelle salse trovano il massimo. Ecco, e non vogliamo invitare con noi. Dottor Donegani, come faccio? Quali pellicole utilizzo per contenere, magari penso che molte persone ad esempio preferiscono ripiegare su un panino, proprio perché a ciascuno il suo panino, si mangia il panino anche più di uno. Assolutamente. Come li faccio questi panini? Guarda, un consiglio che do è innanzitutto prepararli al mattino prima di uscire e non la sera prima, perché sennò davvero si imbevono troppo, che siano col formaggio, che siano con i salumi è la stessa cosa. Poi li possiamo fasciare in carta, no? In modo che assorbe anche l'umidità, un tovagliolino di carta, e a sua volta è perfetto l'alluminio in questo caso. Per quello che riguarda le pellicole, che sono molto pratiche, li possiamo usare per esempio, prima si parlava di formaggi, i formaggi un po' duri, tipo il grana, piuttosto che la fontina, piuttosto che il groviero, ecco, allora in queste pellicole ci sono quelle grasso resistenti, c'è proprio scritto che sono adatte al contatto con gli alimenti grassi, che aderiscono perfettamente e quindi proteggono meglio ancora dell'alluminio il prodotto, anche dalla disidratazione. Perfetto, frutta? Frutta realtà ci sono, qui dobbiamo andare sulla consistenza, perché o prepariamo, ma è complicato, della macedonia in piccole porzioni. Sai che ci sono quelle, quelle coppette che hanno una bella chiusura ermetica, e lì allora sarebbe una bella cosa, si sistemano bene nella borsa frigo ed è fantastico. E sono perfette, monoporzione. Altrimenti tutto quello che si può mangiare in monoporzione ma non è troppo molle, per esempio le albicocche tendono a schiacciarsi facilmente. Ci sono, ho visto in commercio, che sono carine delle confezioni porta banane da picnic, degli astuccini che servono proprio a impedire che la banana si ammacchi nel trasporto. Però abbiamo anche delle diventa difficile col portanguria. Comunque, che mi sembra però che potrebbe essere una soluzione l'anguria, no? Se siamo in tanti. L'anguria lo è assolutamente, perché la possiamo tagliare, no? E quindi preparare già fette prima. Ciascuna fetta, a questo punto, più che nella pellicola, in un sacchettino proprio. Anche quelli dei surgelati. Sì, modo come che quelli della sua amica. Diremmo i sacchetti dell'amica di Donegani. Ecco. Esatto, esatto. Che è stata veramente bravissima. E vogliamo conoscerla, che così ci organizza anche il picnic, quindi nel caso la fettina di anguria, noi siamo a posto. Buon picnic allora, dottor Donegani, buona giornata. Anche a voi, buona giornata. In verità, un posto alla tavola della bufala in tavola gliel'abbiamo sempre riservato, d'altronde con un nome così. Eh sì, perché? Perché oggi parliamo della mozzarella di bufala campana DOP, che, come ogni regina, viene accompagnata. Infatti, insieme alla mozzarella di bufala campana DOP abbiamo anche il presidente del consorzio di tutela mozzarella di bufala campana DOP, sempre, che è il dottor Domenico Raimondo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno presidente, ci vuole fare una sorta di carta d'identità per questa regina, questa imperatrice dei formaggi, che è apprezzata in tutto il mondo, è sempre conosciuta, sempre più apprezzata, ma carta d'identità? Ma sicuramente la carta d'identità è allora, la prima cosa è mai comprare una mozzarella senza il vestito. Per noi il vestito sarebbe l'involucro, l'incarto, la confezione. Quindi bisogna sempre comprare mozzarella confezionata, stare attenti sull'incarto o sulla busta dove c'è scritto mozzarella di bufala campana DOP, con i due marchi, quello del consorzio che lo abbiamo dal Ministero in concessione e quello poi della Comunità Europea. Quindi sono due marchietti, uno con la testa della bufala verde e rosso e l'altro invece arancione sull'altro lato, che è quello della denominazione d'origine protetta che lo rilascia la Comunità Europea. Quindi una volta sempre col suo vestitino. Ecco. Esatto, una volta che abbiamo avvistato questa confezione possiamo esserne certi che all'interno c'è una mozzarella di bufala campana. Apriamo quindi il sacchetto. Quindi è prima di svestirla ci vuole il suo tempo. Questo è chiaro. La denominazione giusta è mozzarella di bufala campana DOP con i due marchi. E questo si vede subito all'occhio. Diceva in un film di Totò, quando non c'è queste cose desisti, e quindi noi diciamo, quando non ci sono questa denominazione e questi marchi, desistete, non comprate. Bello anche con questa lieve inflessione, magnifica, desisti, ma lei lo dice così bene. Noi ci fermiamo ma ritorniamo subito dopo, tra poco. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I fatti raccontati in modo semplice ma senza semplificazioni e spiegati in profondità affinché diventino idee da condividere. Effetto Giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Naturalmente qui su Radio 24. La bufala in tavola. E E c'è proprio la bufala in tavola oggi, alla bufala in tavola. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il presidente del Consorzio di tutela mozzarella di bufala Campana DOP, Domenico Raimondo. Presidente, lei ha detto che non bisogna comprarla svestita, ma adesso che abbiamo capito che cosa dobbiamo leggere, ci mettiamo a tavola? Sicuramente. Portiamo a casa, la portiamo a casa, la svestiamo. Sì. Quello che ci dobbiamo preoccupare è guardare bene la temperatura. Perché la mozzarella deve stare sempre a una temperatura tra i 18 e i 20 gradi. Diciamo che la mozzarella è un po' il clima, è come il nostro corpo. Ecco, no? Come noi. Quando, dove stiamo corpo, bene noi, sta bene lei. Sta bene la mozzarella. Quindi noi basta tenere, come noi ci sentiamo. Se noi abbiamo caldo, quindi la dobbiamo mettere al fresco. Se noi abbiamo freddo, la dobbiamo mettere al caldo. E quindi basta usare questo termine di paragone. Quindi andremo sempre bene. Io preferirei non tagliarla, ma prenderla e darle a morsi. Oh, io guarda, ci sono, abbiamo parlato di picnic. Da una parte, in una mano la mozzarella e nell'altro il pomodoro, morde. Abbiamo le due mani con due prodotti. Non a casa ne abbiamo due. È un morso a destra. Certo. E qua siamo a posto. Quindi, no, ma volendo portarla a tavola, che proprio mi sembra brutto, no? E la tagliamo sicuramente a fette. Bisogna la temperatura è importante per un semplice motivo, perché la mozzarella di bufala, siccome è un po' più grassa del fior di latte, portando alla temperatura di 18-20 gradi, i grassi si sciolgono e li esprimono al massimo sulle papille gustative il sapore. Ecco perché la temperatura è importante. Certo. Altrimenti è un po' come bere una bottiglia di vino dannata, stapparla e berla. E sicuramente non ha lo stesso sapore se la passiamo nel decanter ed sta probabilmente. Certo, lo lasciamo un po' respirare. Esatto, quindi il frigorifero non dovremmo mai metterla, la mozzarella, salvo che la dobbiamo conservare. Certo. Se la dobbiamo conservare, va messa in frigo, possibilmente intorno ai 7-8 gradi, non più bassa, e poi quando la cacciamo abbiamo l'accortezza di cacciarla fuori almeno 2-3 ore prima se stiamo in cucina, oppure se arriviamo tardi da lavoro, non abbiamo tempo e molte volte la nostra vita frenetica ci impone determinate cose che poi a tavola non esprimono il massimo del sapore, possiamo immergerla con tutto il suo vestito che dicevamo prima in una brocca con acqua calda per un 10 minuti, un quarto d'ora, così si ripiglia. Si ripiglia, dopodiché la prendiamo, la svestiamo e la mettiamo in un bel piatto. Forchetta e coltello, mi raccomando, coltello liscio, mai coltello quello lì del pane che c'ha i denti, che altrimenti si guasta. E addirittura, che raffinatezza. Bisogna tagliarla col coltello liscio la mozzarella. Non mai mi fa... col coltello. Magari un morso sì. Un morso sì. Ma però il coltello seghettato no. Mai, senta mai. Mi tolgo una curiosità. Di solito si prende, si mangia e si finisce tutta. Ma se non la consumo tutta, come la conservo? La butto ancora nel latticello? Allora, la fascio? Se è aperta preferibile di no. Se è tagliata preferibile di non metterla nel latticello, di metterla di nuovo al fresco, non freddo, se poi la consumiamo questo la sera. Se poi consumiamo il giorno dopo due giorni, è buona lo stesso. È preferibile poi fare una parmigiana, visto che siamo in estate e ci sono le melanzane, fare un gnocco. Guarda, la melanzana gnocco, abbiamo parlato di gnocchi alla sorrentina. Senta, ma è vero che esiste anche una mozzarella halal per i musulmani? Sì, halal, sì. Sì. La mozzarella certificata halal. Quindi, che in effetti viene certificata. Quindi un prodotto che unisce, mi piace. Sì, è unisce. Senta, Presidente, se lei sta con noi, c'è, e così vi salutate, so che vi conoscete molto bene, che collaborate spesso, il dottor Michele Scognamiglio, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, dottore. Buongiorno a tutti e grazie per il graditissimo invito. È specialista in scienze dell'alimentazione e nutrizione clinica presso la Scuola di Medicina della Federico II di Napoli. Ho sforbiciato un po' la sua qualifica, dottor Scognamiglio, ma lei sa, insomma, vado un po' al sodo e ricordo che è autore anche di tanti libri, tra cui uno su cui vorremmo tornare presto, che si intitola E ora pasta. Ma, dottor Scognamiglio, buona ma generosa di grassi, come possiamo inserirla correttamente nella nostra dieta? La possiamo inserire tranquillamente e serenamente nella nostra dieta, tenendo presente sempre che la somma è più di quello di un risultato. Effettivamente ci sono più grassi, ma attenzione, tra il maggior contenuto di grassi ci sta anche un maggior contenuto di acido butirrico, che è un grasso a 4 atomi di carbonio, straordinariamente utile per la nostra funzione intestinale. Ci stanno molti più lattobacilli e questo confermano il maggiore effetto probiotico, okay, del latte di bufala rispetto ad altri latti animali. Ma un altro aspetto pure molto importante è che il bufalo d'acqua, che vive in un ambiente abbastanza ostile, ha bisogno di acquitrini, di pozze d'acqua per raffreddarsi. Insomma, c'ha una vita dura, deve essere resistente e si deve produrre delle sostanze che in qualche modo possano proteggerlo. Possono proteggerlo. E noi ce ne avvantaggiamo. E noi ce ne possiamo avvantaggiare perché è ampiamente dimostrato da un punto di vista scientifico che il potere antiossidante del latte di bufala è significativamente più elevato perché contiene maggiori quantità di tocoferoli, quindi di vitamine di tipo E, contiene una maggiore quantità di perossidasi, che è uno dei più efficaci sistemi antiossidanti endogeni, contiene una minor quantità di colesterolo, contiene una maggiore quantità di calcio. E questo è il segreto anche della bontà di questo formaggio. Dottor Scognamiglio, so che lei si sta squagliando perché si è fermato per partecipare alla tavola della bufala in tavola sotto un 40 gradi, ma adesso si rinfreschi con una bella mozzarella e pomodoro. Il pomodoro bilancia anche il valore nutrizionale della bufala. Grazie al dottor Scognamiglio, grazie al presidente che è stato con noi del Consorzio Bufala Campana, e io vi auguro una buonissima domenica. E voi altrettanto, professore. Grazie, noi ci sentiamo invece domani alle 6:15, Roberta Frisani in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione in assistenza. Buona domenica da Nicoletta.